sono ancora qui ad aspettare te. Se ci pensi è assurdo amore, far passare ancora il nostro tempo che vola, che vola. Strana di essere ancora vivo e di esserlo per te, è la forza travolgente che fa muovere l'universo e mi guida verso te, ed è che sei il mio mondo certo e l'infinito amore che sento qui per te. Si rumen cha cha da yo, si rumen cha cha da yo.